A bordo campo di Dario Ricci. Ancora Scirè in possesso della palla, al limite per Tardelli, tiro, rete! Rete! Tardelli, rete! Seconda rete degli azzurri! Seconda rete degli azzurri! 23esimo del secondo tempo, l'Italia ha portato a 2 le sue reti. Due reti per l'Italia. Ormai lo stadio è tutto un sventolare di bandiere tricolori. Intanto Pertini riceve i complimenti ed è in piedi in tribuna, nella tribuna reale, è in piedi e riceve i complimenti scambiando stretto di mano e baciando la mano alla regina Federica. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente. Un partigiano come presidente, cantava Toto Cutugno in riferimento a Sandro Pertini, presidente della Repubblica tra il 1978 e il 1985, di cui quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa. Un presidente Pertini che molti di noi ricordano protagonista anche di quella straordinaria festa che fu l'11 luglio 1982 al Bernabéu di Madrid. Italia 3, Germania Ovest 1 e gli azzurri di Berzot campioni del mondo. Oggi però parliamo del giorno dopo quella straordinaria vittoria. Ci spostiamo su l'aereo che riportava in Italia gli azzurri, un DC-9-31-13, lunedì 12 luglio 1982. Ebbene, su quell'aereo, al centro di un tavolo alla Coppa del Mondo, e quattro personaggi davvero straordinari a giocare una partita a scopone. Allora, com'erano le coppie? Chi ce lo spiega? Ce lo spiega Stefano Caretti, presidente dell'Associazione Nazionale Sandro Pertini. Benvenuto a bordo campo, presidente. Allora, chi c'era intorno a quel tavolo che al centro aveva la Coppa del Mondo di calcio? In questa, poi, che è diventata una famosa sfida di scopa, avevamo da un lato Zoff e il presidente e dall'altro Causio e l'allenatore Berzot. Qui poi ci si è interrogati per molti anni sulla famosa affermazione di Pertini dell'errore di Zoff. In tutti questi anni si è detto chi avesse o meno sbagliato, un po' come appunto chi avesse a suoi tempi negli anni 50 passata la borraccia fra Bartali e Cuppi. Ora, grazie al ritrovamento di questo documento, sappiamo veramente come le cose sono andate. Pertini a sbagliare. Ecco perché dall'archivio della Fondazione Pertini è uscito un telegramma inedito fino a pochissimi giorni fa, quando è stato il Corriere della Sera, in un articolo del collega Fabio Monti, a renderlo noto, in cui che cosa accade? Il presidente Pertini invia proprio a Dino Zoff, a pochi giorni dal suo addio al calcio, cioè venerdì 3 giugno 1983, un telegramma che recita così. Caro Zoff, io non dimenticherò mai la tua bravura nel Mundial e la tua bonarietà quando tuo compagno in una partita a scopone, sull'aereo che ci riportava a Roma, ti ho fatto perdere. Il tuo volontario ritiro dalle competizioni calcistiche mi addolora. Esci dopo tante vittorie, il cui ricordo ti conforterà nelle ore di solitudine. Sei stato un nome e un simbolo per tutti gli sportivi. Io sentirò nostalgia di te. Vieni a trovarmi. Giocheremo a scopone. E cercherò di non fare più gli errori che mi hai giustamente rimproverato. Auguri, mio caro Zoff. Ecco, questo è il testo del telegramma inviato dal presidente Pertini a Dino Zoff, quindi c'è l'ammissione di questo errore decisivo in quella partita a scopone che regalò il successo alla coppia Causio-Berzot, no? Parole veramente che scaldano il cuore a risentirle ancora oggi, vero, presidente Caretti? Certo, direi due considerazioni. Pertini ammetteva di avere un pessimo carattere, come tutte le grandi personalità, ma una grande onestà intellettuale, e quindi poi quando sbagliava lo riconosceva. E dall'altro lato questo telegramma testimonia di un sincero attaccamento a quei giocatori che avevano fatto trionfare l'Italia, e quindi non soltanto a caldo ma anche a distanza di tempo, questo ricordo particolarmente affettuoso di Pertini verso Zoff, che lasciava il mondo del calcio. Passano pochi giorni e il 14 giugno 1983 è Dino Zoff, portiere leggenda, capitano di quella squadra per molti aspetti irripetibile, che prende carta e penna e, emozionato, risponde a sua volta al Presidente della Repubblica. Caro Presidente, devo confessarle che le sue parole mi hanno commosso ed inorgoglito e mi hanno aiutato ad addolcire questo amaro momento. Anche da parte mia il ricordo di Madrid e di momenti sereni passati in sua compagnia sono e saranno vivi in me. Spero che queste mie poche righe, scritte però col cuore, le possano esprimere quanto le sono affezionato e quanto le sono grato di considerarmi un suo amico. Sperando di rivederla presto ed abbracciarla, le invio i miei più affettuosi saluti. Ecco, Presidente Caretti, direi anche nella risposta di Zoff c'è un'emozione che travalica i ruoli, diciamo, istituzionali, sia del portierone della Nazionale Azzurra che del Presidente della Repubblica. Intorno a quel tavolo si era creata veramente una comunione d'amorosi sensi, no? Certo, pensiamo poi a una figura come Zoff che non è molto alieno da qualsiasi esternazione. Questa stessa lettera del resto non si era mai data notizia, e però che è toccato dal Presidente, che nel un momento delicato come per tutti l'abbandono di una carriera, poi nel caso di Zoff così fulgida, si ricorda di lui. È sempre nel ricordo di un momento straordinario di Madrid che forse andrebbe anche interpretato al di là del calcio. Era l'Italia che riemergeva dagli anni neri del PD Piombo. E quindi quel successo, quei gol avevano anche un significato di rilancio dell'immagine dell'Italia all'estero. Non a caso Sandro Pertini era stato uno dei sostenitori della prima ora, no? Di quella nazionale di Berzot, che pure tante critiche aveva ricevuto sia nella prima fase del Mondiale spagnolo, ma anche in tutta la fase che aveva preceduto quell'edizione dei campionati del mondo, vero? Una nazionale che tutti noi ricordiamo che era già partita nel pessimismo della critica sportiva e anche dell'opinione pubblica. Pertini invece fin dall'inizio è vicino ai giocatori e all'allenatore, tanto che durante i suoi viaggi all'estero, per esempio quello in Francia, lui segue le partite della nazionale e si impegna ad andare in un eventuale finale, essere presente. C'è una bellissima vignetta all'epoca, ricordo, della Repubblica, in cui all'Eliseo si vedono infatti il presidente Mitterrand e Pertini che, più che guardarsi negli occhi, guardano ognuno le rispettive televisioni dei partiti di calcio, la Francia naturalmente, Mitterrand e Pertini d'Italia. Grande festa in tribuna per Sandro Pertini, ce lo ricordava prima la leggendaria voce di Enrico Ameri, ma Presidente Caretti, quella notte dopo a Madrid il Presidente fece le ore piccole per festeggiare quella vittoria. Il personaggio era molto vitale, ricordiamo che all'epoca ha ormai 86 anni, ma dopo proprio la vittoria lui saluta le autorità, il Presidente del Consiglio tedesco, Re Juan Carlos. Tutti i suoi collaboratori vogliono tornare in albergo, sono sfiancati, lui dice no. L'eccitazione è tale che si fa indicare dal re di Spagna un locale dove facevano un particolare flamenco, e quindi farà poi le ore piccole proprio per sulle ali di questa vittoria della nazionale. Vorrei poi ricordare un altro episodio, sempre di quella finale, e cioè che nel momento del passaggio dei giocatori tedeschi il portiere della Germania non strinse le mani al Presidente, che godeva di una vastissima popolarità anche in Germania. Fu un gesto, fu molto criticato. Schumacher poi successivamente consegnò, per scusarsi, la sua medaglia a Pertini. Qual era il rapporto del Pertini, uomo politico ma anche italiano, con lo sport? Pertini fin da ragazzo pratica lo sport. Lo ricorda in alcune lettere alla madre anche dal carcere. E lui si dedicava al ciclismo quando era in Liguria, quindi non solo lo seguiva ma lo praticava. Era anche un appassionato di calcio, anche qui le fonti non ci sanno dire quale fosse la sua squadra. Si dice forse il Genoa, ma non siamo sicuri. Di certo era la Juventus per la moglie, e questo gli provocò un incidente a Roma, quando in un incontro Roma-Juventus in cui la moglie, la cara Voltolina, si presentò con una sciarpa bianconera, e da allora non la portò più allo stadio. Beh, personaggio a dir poco sanguigno, non l'abbiamo conosciuto e non lo conosciamo ancora oggi, come sicuramente ha avuto lei invece occasione di farlo, ma ci permetta di scommettere sul fatto che al presidente Pertini, in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia, sarebbe piaciuto davvero tanto quel Giro d'Italia che nel prossimo anno partirà da Torino e che toccherà tutti i luoghi simbolo della Nazione Unita. Mentre invece scommettiamo davvero più di un euro che ben poca simpatia avrebbe avuto per qualsiasi nazionale di colore diverso da quella azzurra e di rappresentatività diversa da quella italiana. Ce lo può confermare, presidente Caretti? Certamente, se pensiamo alle sue numerose visite, per esempio a Caprera sulla tomba di Garibaldi o gli omaggi a Mazzini o ad altri personaggi del nostro Risorgimento, va detto che il 150esimo non sarebbe stata soltanto una vuota commemorazione, ma certamente un anniversario particolarmente sentito da chi per quei valori nazionali si era battuto fin dalla giovinezza e fino appunto poi al suo settennato presidenziale. E allora grazie a Stefano Caretti, presidente dell'Associazione Nazionale Sandro Pertini, per essere stato nostro ospite oggi a Bordo Campo. E grazie a voi per aver ricordato il nostro presidente, il presidente più amato. Ora una breve pausa, poi ancora insieme a Bordo Campo.